i fiori del giardino di casa nostra sono tutti morti di nostalgia per te. Le rose che coprivano la nostra strada non vogliono più vivere così. Ma gli occhi tuoi per me non moriranno mai. Queste mie lacrime non sanno spegnerli. No, no, quegli occhi tuoi non moriranno mai. Ti sento accanto a me e invece non ci sei. Le cose che erano nostre sono finite. Il pianto ha fatto il nido accanto a me. Le luci delle stelle si sono spente. L'inverno delle piogge è incominciato. Le nuvole da bianche sono nere. Il nostro cielo azzurro dove andò? Il vento ha ucciso tutti i fiori e il mio amore morto accanto a te. E sì, ma gli occhi tuoi non moriranno mai e le mie lacrime non sanno spegnerli. No, no, quegli occhi tuoi non moriranno mai. Sei sempre accanto a me e invece non ci sei. Ma non importa, dopo la pioggia verrà un'altra donna per me, un'altra donna. Sanno spegnere.